Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Johannesburg e da Dario Ricci. È il giorno della verità per l'Italia di Marcello Lippi. Dopo i pareggi con Paraguay e Nuova Zelanda, gli azzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di finale contro la Slovacchia alle 16 all'Ellis Park. Per sperare nel primo posto del gruppo F serve la vittoria con un po' di gol. Per qualificarsi potrebbe bastare il pari se la Nuova Zelanda andasse KO col Paraguay nella sfida che si gioca in contemporanea a Polokwane. Lippi, che potrebbe rilanciare Gattuso e optare per il tridente, inquadra così i nostri avversari. Ce l'aspettiamo per come ha giocato in queste due partite, per quelle che sono le caratteristiche. La Slovacchia è una squadra che ha degli attaccanti molto veloci, molto abili, che alternano molto frequentemente la posizione, e perciò questo l'abbiamo visto in diverse gare, comprese queste due. Non penso che stravolgeranno il loro modo di giocare. Loro sanno che hanno un solo risultato a disposizione per rimanere in gara e cercheranno tutte le maniere di farlo. Noi non stravolgeremo niente, cercheremo di far meglio in fase offensiva di quello che abbiamo fatto fino adesso, e cercheremo di fare ancora quello che abbiamo fatto fino adesso in fase difensiva, magari con un pochino più di attenzione ai cross da lontano. Fabio Cannavaro, capitano e veterano, non trema dopo una vigilia piena di tensioni e polemiche. No, io penso che la squadra ha bisogno di una vittoria, che comunque lavoriamo da un bel po', e le vittorie ti gratificano, le vittorie ti danno quella voglia di andare avanti, di continuare a lavorare con la stessa intensità che abbiamo messo fino adesso. La vigilia ne ho viste di peggio, perché comunque in questi anni ne ho viste veramente di peggio. Io, come ho detto in questi giorni, sono tranquillo perché da parte della squadra ho visto fare due buone gare. Purtroppo non è venuto il risultato, ma la squadra è viva, la squadra c'è, non ci ha messo sotto nessuno, e questo è già un buon segnale. Io ricordo, non so, in Giappone, per chi c'era, era molto molto peggio, eppure ci qualificammo gli ultimi 5 minuti. Alle 20.30 poi le gare decisive del gruppo E, che negli ottavi incrocia proprio quello degli azzurri. L'Olanda, capolista a 6 punti, affronta il Camerun ormai eliminato. Giappone e Danimarca, appaiate a quota 3, spareggiano per il secondo posto, con i nipponici che possono giocare anche per il pari vista la migliore differenza reti. Ieri gli incroci tra i gruppi C e D hanno regalato emozioni e due ottavi di finale a sorpresa. Germania, Inghilterra e Stati Uniti, Ghana. Sentiamo. Un gol di Defoe al 23° minuto del primo tempo è sufficiente all'Inghilterra per superare la Slovenia e chiudere il girone dietro agli Stati Uniti. Abbiamo avuto molte possibilità di andare a rete, ricorda Capello, e infatti i suoi uomini conducono una partita tutta l'attacco rischiando pochissimo. Eppure gli sloveni possono sperare fino al fischio finale quando, nello stesso momento ma sul campo di Pretoria, Donovan infila a tempo scaduto il portiere dell'Algeria, facendo giustizia di un gol annullato per un fuorigioco incerto nel primo tempo. L'Inghilterra ora incontra agli ottavi la Germania, vincitrice per 1-0 sul Ghana con un gran gol da fuori di Ozil, mentre ai quarti già si intravede l'Argentina, ma anche il Ghana passa il turno grazie all'inattesa sconfitta per 2-1 della Serbia contro l'Australia nella seconda partita del girone. L'altro ottavo sarà quindi Ghana-Stati Uniti. Michele Albini, GR24, il Sole 24 Ore. Ghana, che è quindi l'unica africana ad accedere alla seconda fase. A Radio 24 la soddisfazione del centrocampista dell'Inter, Sulley Muntari. Sì, certo, siamo molto contenti così. Questo è che volevamo, però volevamo che passassi altre squadre, altre nazioni di Africa, però quindi siamo molto contenti così. Adesso gli Stati Uniti, che ottavo di finale ti aspetti? Fortissimo, perché loro sono forti, corrono molto, hanno un fisico e incredibile, quindi non mollano mai, quindi noi adesso prepariamo per affrontare loro. Tanta qualità in questo Ghana, abbiamo visto anche momenti di gioco spettacolare. Certo, noi da tanto che abbiamo giocatori forti che giocano molto bene nel pallone, e poi così, poi abbiamo tanta confidenza quando vediamo le stadio così, noi non molliamo, così noi che piace tanto per fare belle figure. E per il momento è tutto, ancora una buona giornata da Johannesburg.